Camminavo solo per la strada e pensavo ad un futuro che non era poi tanto lontano, stavo molto bene anche perché canticchiavo a mente una canzone scritta tempo prima per te che io non conoscevo, ma sentivo di volerti già. E ora lo ammetto, io non so come vivessi allora. Ricordo che cantavo e sognavo davanti ad un'aurora. Nel tempo che passava, giorni vuoti, ma arrivavi tu. Ed io distratto ti pensavo, ti sognavo ogni istante di più. Ci mettemmo insieme e chi l'avrebbe detto mai? Giurami che è vero e non è solo un sogno oramai. E fu un istante amarti, toccarti, sfiorarti allora. Il tempo rallentava e ripiombavo in paradiso ancora. E poi non so, io non so più, non so che fine hai fatto tu, ma so che io frequentai da lì la mia malinconia. Se io non so più come mai qualcosa poi è cambiato in te e non venire più qua, non dirmi più che ci stai, non dirmi più che ami me. Io non so chi sei, io non so più come mai qualche rimpianto ancora c'è. Che cosa sei ora tu che hanno cambiato di più quelli che odiavano te? Io non so chi sei, io non so più come mai qualcosa poi è cambiato in te. Io non riconosco più in strada gli sguardi tuoi, c'è ancora una parte di te. Io non so chi sei, io non so più come mai qualcosa poi è cambiato in te. E non venire più qua, non dirmi più che ci stai, non dirmi più che ami me. Di notte penso ancora a noi, ci penso spesso, sai. Il tempo ci ha puliti e poi soltanto il vuoto. Ma quante cose ancora dovevo dirti, ma quanto amore ancora dovevo darti. Ci siamo persi ed io non so quel che provavi tu. Anche se ho visto negli occhi tuoi che c'era il vuoto, e mentre intorno qualcuno allora cantava per noi e canta ancora, ma non senti tu te canto io perché.